Rejoice! Real hip hop is back. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Ho imparato a prendere le distanze da certa gente, ho imparato a vivere la vita apertamente. L'unica cosa che so è che certamente chi ti toglie tutto impara a farlo lentamente. Perciò prima di agire penso intensamente, da quando guardo le persone senza lente. Se non ti guarda in faccia non pensa a mente, e continuerà fino a ridurti senza niente. E ho capito che chi si snerva perde, e anche che chi scrive merda vende. Per dimenticare fumo solo erba verde. Sto sotto come Jimmy per le corde della pende. Le porte dell'inferno qua sono sempre aperte, e ci finisco perché sono sempre al verde. Tra le persone che conosco c'è chi appende i guantoni al muro, e dopo il primo match si arrende. Qua mediamente ci sono tanti problemi che mi devo ricordare rimediamente. Medi in alto il pugno chiuso interamente, perché qua non vogliamo cambiare veramente. Giorno, stessa merda. Scrivo molto, ma non penso serva. Niente cambia, anche se la gente cambia. Chi mi sente cambia, chi si sente in gabbia. Senti in me una possibilità per farcela. So che sai com'è quando la vita esagera. So che quello che dirò non ti piacerà. So che sai com'è col rimorso che lacera. So la differenza che c'è tra realtà e finzione, tra me e te, tra verità e invenzione, tra me e me. Penso a una soluzione, magari ingerire una soluzione. Sono mesi che non azzecco una sola azione. Sapere che ho ragione non è di consolazione. So che basterebbe azzeccare una sola canzone e tutto cambierebbe in una sola frazione. Sono caldo come un'insolazione. Vado giù come questa consumazione. Sto sul cazzo a un po' di persone, solo nello spazio con una sola razione. Sembri il tipo che prende una sola alla stazione, rischi come una tipa sola alla stazione. Faccio incubi in cui mi sogno di svegliarmi. Faccio incubi in cui mi sogno di svegliarvi. Sì. Sulla carta, mica Marco carta. Per chi scarta un'altra carta, c'ho una strofa bomba carta. Art attack sulla carta, insegno come mucciaccia. Alimento fiamme in questo fuoco e gioventù bruciata. Inferno paradiso, sul viso le prime rughe. Sono un sogno ricorrente, un incubo come Kruger. Fughe sanguinarie, vite bicentenarie. A Ostia senza l'ostia, con la testa alle Canarie. Per queste scrofe o strofe varie su vari tape. Per chi predica bene poi razzola da fake. Ehi, tu li pop lo scrivi, noi lo viviamo in alta marea, in apnea come Putignano. Pareri su sto piano, ma è piano, non so che dirti. Farmi piacere il tuo rap per me è come applaudirti. Mica vuol dirti bastard, vorrei dirti pasta. Tanto impasta in pasta è sempre la stessa pasta. Un micro senza l'asta e ti patto come all'asta. La qualità da buon ginnasta la salto con l'asta. Dai, hasta la vista, un contratto ci vorrebbe. E se svoltassi con il rap la mia gente poi direbbe Hallelujah.